Rieccoci al podcast di True Metal, la seconda puntata che abbiamo deciso di rendere un po' più sostanziosa, di cambiare un po' in base anche ai suggerimenti che ci avete dato. E sono personalmente felice di poter cominciare ad annunciare le prime novità. Innanzitutto in questa puntata avremo un paio d'ospiti inaspettati, ragazzi che lavorano con me e con gli altri della redazione sul sito, che ci aiutano a riempire di contenuti il sito che leggete tutti i giorni. E il nome ve lo dirò dopo, man mano che arrivano. Intanto vi dico il mio nome, perché una delle cose che è stata poco compresa è che io ovviamente scherzavo nel momento in cui dicevo che non avrei voluto rivelarvi il mio nome. Non mi importa assolutamente nulla, era una battuta, era uno scherzo per la prima puntata, che tra l'altro doveva essere una prova e non una puntata effettiva del podcast. Possiamo chiamarlo il numero zero del nostro Truecast. Bene, io sono Alberto Fittarelli, caporedattore Death, responsabile Death, come vi piace chiamarmi. Mi occupo appunto del Death Metal su True Metal da 6 anni buoni ormai, e con l'aiuto di una marea di ragazzi che si sono alternati, che continuano ad alternarsi e a darci una mano enorme sul sito, e che ho la fortuna appunto di poter, diciamo, coordinare. Per il resto non sono Linus, come qualcuno ha suggerito, e qualcuno ha vinto una mia minaccia di morte via email se prova a ripetere quello che ha detto. Ma passiamo subito al primo pezzo, non allunghiamo le chiacchiere più di tanto. Il primo pezzo è degli Ocean of Sadness, si chiama Subconscious ed arriva dal nuovo album di questo splendido, splendido gruppo, che vi assicuro vi piacerà anche se non conoscete troppo il genere. Ascoltateli con attenzione e poi ci ritroviamo tra qualche secondo. Yeah. erano gli Ocean of Sadness, appunto, con un brano, scusate, dall'ultimo album di Arrogance of Ignorance. Cercatelo, ascoltatelo e compratelo, ne vale veramente la pena, anche se non lo ascoltate avant-garde, perché non si può definire altrimenti questo disco. Ora, come vi avevo promesso, arriva il nostro primo ospite. Abbiamo niente meno che il nostro caporedattore Hard Rock, Fabio Vellata, con la sua roca voce, figlia di innumerevoli bagordi insieme ai peggiori rocker di Caracas, che ci presenterà il pezzo hard rock melodico con cui cominciamo questa puntata dopo gli Ocean of Sadness. Tornerà con noi, con lui arriveranno altre persone, sia in questa puntata ci sarà un altro ospite, come vi dicevo, sia nelle prossime avremo presenza di numerosi dei nostri collaboratori. Vi lascio direttamente a lui, che introdurrà il nuovo pezzo degli Animal. A tra poco. Eccoci giunti al momento melodico di questo secondo numero del podcast di True Metal. Un piccolo spazio dedicato a toni leggermente più smorzati rispetto a quella che è la violenza di generi estremi come death e black metal. La proposta che abbiamo scelto questa settimana è dedicata a Randy Pipers e al suo progetto Animal, fresco autore di un interessantissimo album intitolato Virus, che abbiamo recensito da poco proprio sulle pagine del nostro sito. La canzone che abbiamo selezionato è Don't Wanna Die, un brano decisamente piacevole che si stampa in testa e non ne esce più, con un ritornello che facilmente ci si trova a canticchiare dalla mattina alla sera senza nemmeno rendersene conto. Io vi auguro buon ascolto, qui è Fabio Vellata e questa è Don't Wanna Die. I finally got the answer, take a shot and hope it takes the pain away. Time is running faster, so much baby that I need to say. Yeah. Benissimo, rieccoci, anzi rieccomi. Questa era Don't Wanna Die degli Animal di Randy Piper. Fabio ci ha introdotto al pezzo e nella recensione ha spiegato benissimo anche perché sia importante sapere chi è Randy Piper. Non lo sapete? Non siete addentro all'hard rock esattamente come non lo sono io, così tanto almeno? Bene, Randy Piper, che voi ci crediate o meno, è uno dei cofondatori dei Wasp. Li ha fondati insieme a Blackie Lawless e poi è scomparso dopo soli due dischi, per ricomparire come solista nel 2002 con questo progetto. Progetto che a quanto pare ha ben più di una freccia al suo arco. Per cui, se è capace di piacere a me, vi assicuro, buona camicia a tutti. Quella che stiamo per sentire adesso invece è una canzone decisamente diversa. È una canzone abbastanza controversa e come controverso è tutto il disco che la contiene. Indovinate di chi stiamo parlando, qualcuno di voi che ascolta musica più o meno estrema già lo avrà potuto intuire. È un gruppo che abbiamo appena recensito su True Metal, l'ha recensito il nostro Pierre, e stiamo parlando ovviamente dei Satyricon. I Satyricon che ogni volta che escono con un disco, ormai da diversi anni, perlomeno da, mettiamo Rebel Extravaganza in poi, perché già quello aveva cominciato a dividere la gente, bene, ogni volta che escono con un disco fanno discutere. Quello che hanno fatto con The Age of Nero e con la canzone che apre l'album, che è quella che stiamo per farvi sentire, Commando, è ancora la loro formula black and roll, ma non diteglio, perché loro si arrabbiano a sentire parlare di black and roll. È solo musica, è solo black metal, l'attitudine è rimasta quella, gli vogliamo credere, non gli vogliamo credere, non si sa. Intanto ascoltiamoci il pezzo e decidiamo in base a quello, alla fine è quello che conta. Quello che vi posso dire sicuramente è che Commando, o meglio che tutto l'album di Age of Nero con la sua recensione su True Metal ha fatto discutere non poco. Andate a riprenderla, leggetevi i commenti che ci sono sotto e capirete perché abbiamo dovuto penare non poco per tenerla sott'occhio. A tra poco. Comando appunto The Satyricon. Andiamo a vedere perché tanto casino sulla recensione di True Metal, o meglio sul disco, perché in realtà bisogna dire con onestà che quello che ha creato problema non è stata la recensione in sé, anzi moltissimi sono stati d'accordo con quello che Pierre ha scritto, solo che per la prima volta nella loro storia i Satyricon hanno preso un 55 su True Metal, hanno preso un'insufficienza, e molti di voi e molte di noi anche sinceramente gli hanno dato lo stesso voto o gli avrebbero dato anche di meno. Purtroppo il disco ha scontentato infatti tantissime persone. Ha ragione o meno non lo voglio dire, ognuno ha i suoi gusti, è una cosa in parte almeno soggettiva. Andiamo a vedere però che cosa ha scritto Pierre di Commando, giusto per farci un'idea del motivo per cui gli abbia dato questo voto, ok? Pierre dice: l'opener Commando parte bene con un riff in thrash black molto veloce e serrato, per poi lasciare il passo al consueto schema, strofa groovy e cadenzata che sfocia in un refrain piuttosto piatto, ripetuto allo stremo, finché viene ripreso il riff iniziale, indubbiamente molto violento. Resta il fatto che siamo di fronte a un pezzo un po' fiacco, che se la gioca per il posto di opener più insipida della discografia dei Satyricon, nonostante l'inserimento, per la verità abbastanza estemporaneo, di un paio di passaggi tirati di scuola nel vano tentativo di renderlo più interessante, ma è solo fumo negli occhi. Insomma, un parere drastico sicuramente che molti di voi hanno condiviso e molti di noi sinceramente si sono trovati assolutamente d'accordo. Stiamo a vedere che cosa succederà con Satyricon, sicuramente dal vivo rendono molto meglio di quanto possono fare al momento su disco e fanno discutere molto di meno. Chi non fa discutere sono i Behemoth, che escono con un nuovo EP che contiene in mezzo ai soliti ammenicoli da EP anche un inedito, Quadosh, che vi facciamo sentire adesso. Speriamo che vi piaccia, una canzone un po' particolare e potrebbe fare da apripista per il prossimo disco. A tra poco! Yeah, I'm in. torniamo per così dire in studio per chiacchierare un attimo riguardo i Dark Tranquillity. Dark Tranquillity che hanno appena fatto alcuni concerti in Italia e che noi puntualmente siamo andati a vedere per farvi il report che è pubblicato già dall'11 di questo mese e che potete leggere ancora in home page nella sezione concerti, che vi ricordo è in basso a destra nella home page. Ora, quello che hanno scritto i ragazzi che hanno fatto il report, cioè Angelo, Pier e Lorenzo, è che i Dark Tranquillity in ogni caso hanno spaccato. Vediamo che cosa dice Pierre in particolare nel report del New Age di Roncade, provincia di Treviso, dove hanno suonato e dove lui ha assistito al concerto. Al di là della bravura e della freschezza che Dark Tranquillity stasera hanno dimostrato, davvero impeccabili in ogni reparto, compresa la new entry Daniel Antonsson, che vi ricordiamo è il nuovo bassista, resta la sensazione di un concerto coinvolgente e sentito, tanto dai molti spettatori accorsi quanto dalla stessa band, come i calorosi ringraziamenti finali, che in questo caso sono sembrati tutt'altro che di circostanza, stavano a dimostrare. Insomma, un gruppo che vale sempre la pena andare a vedere, anche se obiettivamente qualcuno li accusa un po' di staticità, soprattutto dal vivo, perché tendono a fare materiale sempre uguale o concerti molto simili tra loro. Vi dico, personalmente io li vedo sempre volentieri. È anche vero che qualcosa devono forse rinfrescare perché iniziano a ripetersi. Andiamo a parlare ora invece di melodia, con un pezzo che sto per introdurre, sono i Seventh Wonder, siamo sul versante prog della Scandinavia in questo caso, i Seventh Wonder con Welcome to Mercyfall. Hanno fatto un gran disco, vi lascio sentire questa canzone che la introduce molto meglio di quanto posso fare io. Won't you read the sign? Questi erano i Seventh Wonder con appunto Welcome to Mercy Falls, che dà quasi il titolo al loro disco, si intitola appunto Mercy Falls, uscito ora su Lion Music. Trovate la recensione d'opera di Riccardo Angelini sul sito, su True Metal, è stata appena pubblicata, ha preso un bel 83, quindi vi potete già immaginare la qualità di questo album. Ora, quello che stiamo per andare a sentire è una commistione di, come dire, brutalità e melodia. Brutalità, non vi spaventate, non è tantissima, ma la melodia c'è. Siamo a metà ed è infatti quel genere che viene definito normalmente metalcore, che ha preso, diciamo, ha cominciato ad avere successo qualche anno fa in America, riprendendo gli stilemi svedesi, e che si sta sviluppando. Quelli che state per sentire sono i Bleeding Through, che hanno fatto obiettivamente un bel disco, che Mattia Gatti ha recensito con un 80 su True Metal. Andiamo a vedere se vi può piacere. La canzone si intitola Declaration, è esattamente la title track del disco. Ci risentiamo brevissimo, anche se prima di risentire me direttamente avremo l'incursione di un ospite che ho annunciato già in precedenza. Bentornati all'ascolto del secondo podcast di TrueMetal.it, sono Paola e nei prossimi pochi minuti che passerete in mia compagnia parleremo di news e concerti. Partiamo subito con i Moonspell che hanno annunciato la data di uscita del loro nuovo doppio DVD, anzi il loro primo doppio DVD, sarà pubblicato in Italia il 5 dicembre e si preannuncia come un prodotto veramente imperdibile. Infatti contiene un intero concerto registrato in Polonia nel 2004, tutti i videoclip che hanno registrato da Opium a Everything Invaded, interviste, approfondimenti e il secondo DVD contiene più di 50 tracce live, alcune demo, alcune del 92, fino a quelle dei più recenti tour tenuti dalla band. Passiamo poi ai Dimmu Borgir che pochi giorni fa hanno annunciato chi sarà il nuovo batterista che prenderà parte ai lavori del prossimo album. Si tratta dell'ex Vader, perdonatemi la pronuncia, Darius Brozovsky, meglio conosciuto come Darei. Abbiamo poi i Six Feet Under che hanno da poco pubblicato il loro nuovo disco Death Rituals. Questo album pubblicato da Metal Blade verrà anche reso disponibile in vinile e a breve saranno resi noti i dettagli della versione appunto in vinile. Passiamo poi al thrash con i Death Angel che sono alla ricerca di un nuovo bassista. Infatti Dennis ha lasciato il gruppo per motivi non ben precisati e quindi al momento i Death Angel sono alla ricerca di un valido sostituto. Se quindi vi sentite pronti per fare il grande salto, mandate pure la vostra candidatura all'indirizzo email deathangelbass@gmail.com. In bocca al lupo. Passiamo poi al Nightwish, che la cui news che abbiamo pubblicato su True Metal proprio pochi giorni fa ha fatto veramente un sacco di letture, in quanto a quanto pare la nuova cantante Annette è stata presa da un colpo di crisi proprio nel bel mezzo di un concerto in Brasile e ha abbandonato il palco in lacrime lasciando il povero Marco Jeetala completamente spiazzato e costretto a proporsi come cantante improvvisato. C'è anche comunque un video su YouTube se volete vedere la scena e lo trovate anche all'interno della news dedicata. Torno ora a intervenire io brevemente solo per lanciare il nuovo singolo dei Grave Digger, con cui vogliamo tornare per un attimo alla musica suonata per poi ritornare appunto in studio con Paola di nuovo, che ci illustrerà i concerti che stanno per essere effettuati in Italia e a cui potreste essere interessati ad andare. Il nuovo pezzo di Grave Digger appunto si intitola Prey e dà il titolo al nuovo singolo, al nuovo EP che sta per uscire su Napalm Records, nuova etichetta del gruppo Heavy tedesco. Sentitelo, commentate, spero che vi piaccia. A me non è affatto dispiaciuto, anzi, a tra poco. The shadow moves, La seconda parte di questa veloce rubrica tratta invece i concerti, in quanto vi voglio riassumere il più velocemente possibile le date più importanti della prossima settimana che si terranno in giro per l'Italia e che riguardano band di un certo calibro. Cominciamo subito il 15 novembre, abbiamo gli Haggard al Fillmore di Corte Maggiore di Piacenza, ci sarà Ross the Boss e i Sinner al Siddhartha di Prato e gli Strano Officina al Pinarella di Cervia. Il 16 novembre abbiamo i rumeni Negura Bunget al Bronson Club di Ravenna, il 17 novembre un poker di gruppi d'eccezione all'Alcatraz di Milano, ci sono i Corpi Clani, Battlelord, Falcon, Kivimez and Druidi. Il 20 novembre ci saranno i Darkane al Limite di Roma e la stessa sera gli Orlande al Legend 54 di Milano. Il 21 novembre sarà una data ricchissima in fatto di concerti, quindi segnatevi sul calendario il prossimo venerdì sera, in quanto ci sono gli Eldritch allo Zoe di Milano, gli Ensof alla Gabbia in provincia di Padova, i Firewind allo Zoe di Milano, gli Holy Martyr accompagnati da Battle Rourke, Rose Crucis al Jailbreak di Roma, ci sarà in versione Unplugged Keep Winger al Midian di Cremona, i Necrodeath al Beer Garden di Palermo, questa è una data imperdibile per tutti quelli che ci ascoltano dalla Sicilia, ci saranno dall'Inghilterra gli storici Tokyo Blade e per finire al sottotetto Sound Club di Bologna la Metal Gang, ovvero il nuovo gruppo, nuovo per modo di dire, composto da musicisti italiani ben conosciuti quali Trevor, Tommy e Alessio dei Sadist, Olaf Thorsen e Fabio Liore di Vision Divine e Roberto Tiranti dei Labyrinth. Bene, con questo abbiamo finito la carrellata dei concerti imperdibili della settimana. Mi raccomando, tenete sotto controllo la sezione concerti del sito, che è sempre ricca di appuntamenti anche più underground in tutta Italia. È ora di lasciarvi al prossimo pezzo, questa volta Doom, sono i Kursk con Stalingrad, tratto dal disco Cerno, che è già uscito per Century Media. Una sola curiosità, i Kursk sono il progetto in cui militano il cantante della power metal band Dreamtail, Erki Seppänen, e il ben più noto chitarrista Sami Lopakka degli ormai defunti Sentenced. Ci sentiamo quindi la prossima settimana con news e concerti, ancora un buon ascolto con Stalingrad, ciao! смотрел так тихо, знал, что он сделал. Я попрощался с женой и молча пошел. Спускаясь, я подумал, как я сына люблю. Questo è Ruin Kursk, gruppo finlandese doom metal che canta solo in russo e parla solo di Russia. Un po' monotematici ma decisamente interessanti, il disco è uno dei migliori usciti negli ultimi mesi sicuramente. Vi consigliamo di ascoltarli in attesa di leggere la recensione che a brevissimo sarà online su True Metal. Ora passiamo però all'ultima iniziativa per questo podcast che ormai ha raggiunto più o meno un'ora di lunghezza. Si tratta del demo del mese, abbiamo scelto un brano da uno dei demo migliori che abbiamo ricevuto, si tratta dei Aesthetic Project, di Aesthetic Project, scelti da Riccardo Angelini, che sono beccati un bel 80 su True Metal e meritano davvero di essere inseriti. Il brano in questione, introdotto dal mitico Ash dell'Armata delle Tenebre, scusate, è Join Our Army. Detto questo, ci risentiamo la settimana prossima, mi raccomando scriveteci via email a truecast@truemetal.it. Commentate sul forum, commentate la notizia, commentate dove vi pare. Basta che ci fate sapere se vi è piaciuta la trasmissione o se no, perché non vi è piaciuta. A presto e buon divertimento. Signore, temo di doverle chiedere di uscire da questo negozio. Che diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. Reparto ferramenta.